You belong in every milliliter of. They trying to take out every military leader, but he was born to be a martyr, and that doesn't mean a thing because that body really mean. Fill it up. Your history is one you might consider killing for. This ain't the shit they taught you when you went to kindergarten. What you need to know is in the Queen Angela done told y'all. Grass path through. So what y'all talking about? Hands up, don't shoot. Look back. Blood on the ground. Look straight. They still shooting. Jump back. E ci ritroviamo ancora sulle frequenze di Radio Godzilla e sono le 19:16 minuti, ci ritroviamo in collegamento come già succede dai nostri microfoni e facciamo aggiornamenti e teniamo un po' alta l'attenzione rispetto alle proteste della Val di Susa e quindi di tutto il movimento NoTab. Abbiamo sentito già altre volte la voce di Nicoletta, di Emilio. Oggi ci ritroviamo con Mimmo per parlare di un nuovo presidio, non nuovo però, di una nuova occupazione che si sta svolgendo in questi momenti adesso in Val di Susa, in quel di San Didero. Ciao Mimmo intanto. Ciao, ciao. E allora Mimmo, noi abbiamo un po' seguito quello che sta succedendo questi giorni, insomma il movimento NoTab si rimette in marcia e già da un po' di tempo ha cominciato, nonostante la dichiarazione da zona rossa in Piemonte, e ha comunque continuato a fare presidi, a portare solidarietà sotto al carcere e a dare supporto a tutte le persone che vivono sulla propria pelle la repressione rispetto alla lotta NoTab. E quindi Mimmo, raccontaci un po' cosa sta succedendo in queste ore proprio. Sì, adesso in questo momento siamo vicino a un bel bicchiere di vin brûlé per riscaldarci un po'. Siamo all'autoporto di San Didero, in quell'autoporto che era stato abbandonato 30 anni fa, che avevano fatto già tutto costruito, tutto fatto, spese enormemente soldi pubblici, poi è stato abbandonato e fu fatto a Susa, non si è mai capito il perché, probabilmente sempre col sistema di far girare i soldi, certo, ai sessi. Adesso noi abbiamo occupato, già da un po' si parlava, dovevamo fare occupare perché vogliono fare questo nuovo autoporto che noi contestiamo, perché in realtà con una costruzione di una caserma e poi perché il sistema è sempre questo, la caserma che sta dentro l'autoporto di Susa probabilmente serve alla TELT, questa che è la società che ha per fare uffici, la società che sta facendo, che dovrebbe fare il tunnel, quindi si prendono un fabbricato gratuito e gli danno, naturalmente facendo con soldi pubblici si fa una caserma nuova, tutti contenti, anche i poliziotti avranno la loro caserma nuova, ma noi cercheremo di impedire tutto questo scempio ancora e tutto questo spreco di soldi. Quindi abbiamo preso un'ala, una buona parte di questo fabbricato che era ormai tutto rovinato, al disuso, stiamo cercando, sono da giorni che i ragazzi... io sono meno giovane quindi lavoro un po' di meno, faccio presenza, e quindi che stanno lavorando, si sta portando, c'è l'appello di materiale che serve per renderla idonea e poter stare notte e giorno a presidiare, lì vicino hanno già portato i jersey, quindi nuovi jersey, quindi sono pronti per partire a fare sta chiusura, e quindi noi cercheremo, come tante volte abbiamo fatto, a bloccarle, almeno ostacolare, o almeno dargli il fastidio il più possibile. Quindi ci sarà già gente che li dorme, abbiamo già portato brandina, ci stiamo attrezzando con stufe, che l'inverno insomma non è che la notte è abbastanza freddo, però stasera abbiamo fatto l'inaugurazione ufficiale, diciamo, no? E quindi sono venuti anche i ragazzi da via, è pieno, c'è una bella atmosfera, una bella allegria, una buona determinazione, tanti giovani che sinceramente era un po' che pensavamo non stiamo lasciando ai giovani, adesso la presenza la sto vedendo massiccia, ma già dai mulini, già da quest'estate abbiamo avuto un cambiamento di rotta e siamo, diciamo, noi meno giovani siamo molto molto contenti di questo, perché sappiamo che avendo la nuova forza, avendo il sostegno dei giovani, non riusciamo a essere più forti noi e cerchiamo di tenere a bada tutte queste e scende che loro di sprechi di soldi pubblici che stanno facendo. Allora Mimmo, scusa se ti interrompo, allora ricapitoliamo un attimo. Oggi il Movimento Notav occupa dei terreni che dovrebbero essere i terreni che da qui a qualche giorno Telt con le forze dell'ordine dovrebbero prendere per aprire un nuovo cantiere a San Didero per la costruzione del nuovo autoporto, giusto? Sì. Allora, giusto, quindi giusto. Da oggi ufficialmente parte questa occupazione del Movimento Notav su questi terreni, quindi con l'allestimento, la sistemazione del posto e l'invito a tutti quanti potessero a partecipare a questa occupazione. Certo, certo. È un'occupazione sotterranea già abbandonata, quindi si sta al buio, c'è poca, non ci sono le comodità, non so dire. Come al solito, no, come al solito. È davvero un presidio di lotta come quelle che abbiamo fatto, ci ha dato a porta anche a Disusa nel 2010. Come questo qui, vedo che però oggi qui erano almeno 200 persone, cioè mi ha meravigliato sinceramente che tante persone così, non so se ha il profumo del vin brulé che sta facendo a tutto andare, ha attirato di più, però penso che è un'atmosfera di trovarsi, di stare assieme e di lottare assieme. Penso che c'è una determinazione nuova adesso, anche io penso a tutti i fatti che vengono, molti ragazzi stanno rendendosi conto, ma come, non ci sono soldi per la sanità, non ci sono soldi per tutti, c'è il disagio, non ci sono soldi per la cassa integrazione, non ci sono, c'è una disperazione della gente e questo continua allegramente a sperare i soldi pubblici, quindi c'è una determinazione ad essere incazzati ed essere presenti. E quindi eravamo davvero da tanti, nonostante il disagio, nonostante la posta di disagiata, non c'è nulla, e quindi siamo nel nulla lì di sto campagna, di sto verde che verrà tutto distrutto, siamo determinati a impedire, insomma, quello che vogliono fare e il loro affare. Veniamo da una settimana abbastanza intensa, perché non so se avete senz'altro visto, perché i telegiornali hanno portato, il giornale anche, di lotte fatte con Giaglione, perché improvvisamente ci siamo trovati sabato scorso, venerdì scorso, un accerchiamento e un isolamento di tutto il paese da parte delle forze dell'ordine. Tutte le strade ingresso erano tutte presidiate da decine e decine di poliziotti, tutto sto paesino erano più poliziotti che abitanti, pensate un po', e quindi per entrare e uscire gli abitanti avevano documenti, giustificare perquisizione della macchina, sì. Ci è venuto di tutto, quindi da lì avevamo fatto una, ci eravamo trovati a Venaus e da lì avevamo pensato, ma andiamo a dare solidarietà, perché dentro comunque ai mulini, dentro vicino al cantiere c'è sempre la nostra rappresentanza di quei 600 ragazzi che dormono anche di notte, stanno di giorno sempre a presidiare lì e controllare come si muove nel cantiere. C'era stato già questa specie di allargamento che hanno voluto fare, c'erano stati già dagli scontri, noi volevamo dare solidarietà a questi ragazzi. Il tempo che siamo partiti da Venaus a piedi con delle fiaccole, così siamo arrivati di Assusa all'ingresso di Giaglione. Era naturalmente, sapevamo già che c'era il blocco, però noi tentavamo di arrivare ugualmente. Non arrivavamo ancora a 40-50 metri, hanno cominciato a sparare gas da contro senza nessun motivo, così a chi capita. Naturalmente gas lacrimogeno che andavano anche nelle case, perché è pieno paese lì, sì. E noi siamo rimasti un po' sbalorditi. Io so che con alcune c'è stata anche una donna anziana che si è spaventata, mi ha chiesto, mi aiuto, accompagno ad andare su, perché da solo qui a buio non ce la faccio, quindi ritornare verso Venaus. E mentre andavamo lì, quindi c'era anche Gino di 80 anni, ma determinato, cioè, certo. non parlo di persone un po' mollicce, impaurite, però che si allontanava da tutto sto gas così, perché non era bello questo pazzo. E come sono sceso due o tre cellulari pieni di cazzo di spiriti, ma è la prima cosa, senza vedere cosa succedeva, perché gli altri erano a 200-300 metri, con le macchine che circolavano, perché non avevano bloccato nessuna strada, non facevano niente, hanno cominciato a dare ordini, sparate, sparate, sparate, così, alla nostra protesta, di quei 4-5 anziani che eravamo lì, ma che state facendo? Ma cosa sparate? C'è la macchina, c'è la gente, come, cioè, e poi cosa? Cioè, non vedete nulla, continuate a sparare verso quella direzione, che cioè, potete far male alla gente che non c'entra niente, ma anche noi che c'entriamo, cosa stanno facendo? Stiamo con la fiaccola, gridando così, ma l'altro sembrava un invasato, per me era fatto, sì. Era, infatti mi sono messo a gridare. Non può essere altra giustificazione del fatto di cocaina, questo mi sono messo a dire, ma qua chi comanda è proprio, è un cocaina, e così, quindi, ma era, sembrava impazzito, proprio, sparare, perché poi i carabinieri si erano resi altri, perché questo era un gruppo di carabinieri, ma che non era, non erano di qua, insomma, no, probabilmente qualcuno dice, ma sembrano spaventati, perché questi fanno così, oppure... per me si sentono impuniti, no? Se sembra che hanno carta bianca, possono fare quello che vogliono perché sanno che possono essere difesi, infatti sì. I telegiornali, i giornali e cose sono a difesa, sì, sì, certo. Poi allora a risposta a tutto questo ci troviamo a Giaglione, avevamo arretrato tutta questa cosa perché poi c'è stato il sindaco, l'incontro col sindaco a dire ma cazzo tu non protesti, cosa succede qua, insomma viene un paese così sotto assedio, tu manco lo sapevo, perché lui ha detto ah, io a me nessuno mi ha detto niente, vabbè, ma lo sai quando sono i cittadini, purtroppo i cittadini anche a Giaglione non so, secondo me sono abituati a queste cose qua, si sopruso ormai e quindi non ci fanno più caso, cioè non protestano manco più, oppure vanno, glielo dicono, i sindaci non posso farci niente, il prefetto che ha dato l'ordine, sì. E quindi è quella, c'è quell'atmosfera un po' di molti cittadini per dire così non si può fare niente, e noi invece ci siamo trovati in tanti a Giaglione e abbiamo fatto la strada dalle Gallia, quella che si chiama, quello sterrato che va fino a Candiera, sì. E di là poi penso che avete visto già, chi ha voluto vedere, chi ha voluto sapere, c'è stato lo scontro, insomma eravamo incazzati noi e loro, adesso si vede che hanno gas in quantità, sti boss, perché era un periodo che avevano diminuito un po' di sparare, adesso si vede che gli hanno dato fornitura a non finire. Ma candelotti sono sparano. In scadenza, come il 3 luglio, avevano tanti candelotti da dover usare prima della scadenza. Esattamente. Un bel tirabersaglio. Sì, ma avevano finito quello, sembrava che era più, invece hanno fatto nuove forniture, quindi il sistema guerra e i soldi alle forze armate sono esagerate, non ce n'è per né per le scuole, non ci sono né per il dissesto territoriale, non ci sono né per terremoto, né per alluvione, né per i disagi, né per sostenere le categorie deboli, e operai così e chi non lavora, cioè, ma ci sono per le forze armate, tutto lì, perché è uno sprigo enorme, cioè, poi ormai noi ci siamo abituati anche a sti gas. Ti dico, l'altra sera erano a 300 metri, quindi manco arrivavano, a sparare, a tutto andare, hanno sparato a centinaia, nel nulla, proprio per dire sprecare così, da imbecilli, vabbè, non ti puoi aspettare altro da certi comandanti, Certo, certo. Poi faranno carriera. Senti Mimmo, allora saremo attenti questi giorni per sapere un po' gli sviluppi e sicuramente mercoledì prossimo riaggiorneremo chi ci ascolta su quello che succede. Invece ti volevo chiedere rispetto alla campagna che si sta facendo per raccolta, per ridare un po' di forza alla cassa antirepressione, a cassa di resistenza Notav, e insomma tutto riparte, si è rilanciato dall'arresto di Dana e i domiciliari di altri compagni, quindi un attimo ci puoi, sappiamo anche che ci sarà un'asta con disegni di persone che si sono resi disponibili, e insomma ci rimandi un po' alla chiamata che è stata fatta per la cassa di resistenza? Sì, noi veramente già un paio di mesi fa, dato che stanno andando a termine, perché c'era Nicoletta ancora in galera, ma che non aveva bisogno, diciamo, di essere una salva, però avevamo già previsto che ci sarebbero stati altri arresti, o arresti in carcere, più che altro non ci aspettavamo questo carcere per Dana, anche perché era incensurato precedentemente, quindi si pensava che erano dei servizi alternativi, invece hanno voluto... con accanimento sempre quando riguarda i notavi di doverla mettere dietro alle sbarre, e poi ci sono altri 10 che sono ai domiciliari. Quindi noi pensavamo, più adesso domani, infatti domani c'è un presidio a carcere di Torino, al Tribunale di Torino, prima presidio la mattina, tutta la mattinata fino a tardi pomeriggio saremo davanti al Tribunale a Torino, perché si conclude sempre che vogliono, il giudice vuole chiudere subito quel processone famoso che la Cassazione ha rigettato a Torino, ha detto voi siete pazzi, che hanno messo terrorismo, tutte queste cose, su proprio le cose assurde, sono talmente assurde, la Cassazione ha scritto, sono talmente assurde queste accuse che non sono sostenibili assolutamente, rifate da capo tutto, no? Sì. E loro hanno rifatto in 448, adesso 3, però con l'idea sempre di condannare, di dare, quindi abbiamo detto qui purtroppo ci sarà gente che andrà ancora dentro e ci sarà gente che comunque andrà a domiciliare e che si troverà in difficoltà, e che noi dobbiamo sostenere, perché la nostra lotta non lasciamo al loro destino, cioè adesso va aggiustata. Quindi abbiamo pensato di lanciare la cassa di esistenza, dove abbiamo stabilito che daremo 350 euro al mese per ognuno che sta in carcere per i suoi bisogni, dal tabacco, non so, a farsi arrivare da mangiare, perché là dentro, come ci ha raccontato Nicoletta, ci sono delle cose puzzolente, è impossibile da mangiare, e quasi nel 99% proprio il più disperato proprio a zero, ma chi può, in qualche maniera si arrangia con i fornelli nelle celle, si fanno qualcosa da mangiare così. E quindi noi vogliamo sostenere anche gli altri carcerati, cioè Dan, che deve aiutare anche con la spesa, comprare tutto quello che si può, dove ci fare loro da mangiare, e può dare anche qualcosa d'aiuto anche alle altre carcerate. E quindi, e poi anche chi sta in domiciliare, che non ha lavoro o che non ha un reddito, che non può, se sta in domiciliare non può vivere perché non può andare non gli concede di andare a lavorare, come c'è qualcuno, oppure perde il lavoro o non ha il reddito di finanza, quindi non ha altre maniere, daremo la stessa cifra, perché comunque vogliamo che debba vivere, sopravvivere, perché non è che sia una grossa cifra, ma ci impegneremo nel tempo a dover sostenere, poi se ci saranno più bisogni vedremo come fare, a sostenere questo. Tra le altre cose abbiamo fatto questa campagna, molti ci stanno con dei numeri dei band, che sono sempre gli stessi dei nostri due vecchietti che hanno tenuto la nostra casa da ormai da più di 30 anni, che abbiamo hanno la piena fiducia di tutto il movimento da 30 anni, di tutto il movimento Natal, e quindi abbiamo già visto che già da Roma, ringraziamo, ci sono arrivate in due o tre ondate di raccolta fondi che sono state fatte e che sono state inviate, però c'è tanta gente per tutta l'Italia che ci sta, da quando abbiamo detto dobbiamo sostenere tutto, dobbiamo mantenere, perché la lotta non si ferma lì, non si deve fermare, e quindi ci stanno aiutando. Tra le altre cose ci sono venute poi due idee buone, che una è il libro di Emilio. Sì. Emilio, tutti pensano che a Roma lo conoscete, ma è conosciuto un po' perché lui è stato sempre in prima linea in ogni occasione negli ultimi 10 anni in maniera infaticabile, sia per i migranti, sia per la lotta notare, per qualunque sia, è un generoso, è un guerrigliero, è un guascone che piace ai giovani, è un lottatore nato proprio, quindi noi con Emilio è uno che ci vuole bene, ed è la sua storia autobiografica della sua vita, che è molto interessante, è bella, è scorrevole, e dove lui ha deciso che i soldi ricavati, diciamo, di questo libro andranno metà al movimento Notav e metà ai migranti o altre realtà che hanno bisogno, che lui vuole sostenere, anche le carceri, per dire. Certo. Quindi ci stiamo impegnando a vendere questo libro, perché intanto abbiamo già recuperato dopo 2 o 3 giorni che è uscito il libro, a presentazione l'altro sabato lì a Sant'Itero, già abbiamo recuperato le spese, perché quella, diciamo, per stamparlo la spesa l'ha sostenuto un momento notato, è sì. Stato un investimento alla fine, no? Quindi adesso tutto quel che viene va per la cassa di resistenza, per tutte quelle che si troveranno in difficoltà, che avranno bisogno di aiutare, e noi non possiamo dire non ce la facciamo, non possiamo. Dobbiamo dire sì, noi ci siamo e ti aiutiamo, questo è lo scopo. Poi ho avuto l'idea che mi è venuto quando è venuto Zero Calcar qui al presidio, qui a Venaus, all'incontro. Lui faceva la firma dei disegnini, no? Sì. Faceva dei disegni, e era una fila che non finiva più, una folla, è stata non so che forza, perché poi ognuno faceva un video. Allora c'era una ragazza, una signora, mamma di due figlie, che ci sostiene sempre di Como, ma viene qui a ogni momento, ogni volta che c'è una manifestazione, cosa, lei è sempre qui presente. Vale, da quando siamo andati a Como a fare una presentazione, da allora lei è rimasta innamorata della Valle e di continuo qui, e ci sostiene economicamente sempre, perché anche questa casa adesso lei ha dato una bella cifra. E quindi lei fa, si potrebbe, lei ha detto, non è stata una mia idea, dice, si potrebbe, vista da Zero Calcare, ci faccio un disegno così, e metterà là, qualche soldino ci prenderemo. Quando poi abbiamo fatto questa cosa, io mi sono ricordato di questa cena di sta ragazza, e ho detto, perché non facciamo, non solo Zero Calcare, perché non chiediamo a compagne, ne conosciamo come Aladino, dice, ne conosciamo diverse in Italia che sono venute a sostenere, insomma, così, se ci fanno un disegno facciamo un'asta. E così è arrivata questa idea. Adesso domenica faremo questa online dalle 10 alle 19. Noi pensavamo di fare un'asta di 6-7 disegni, tra serigrafia o disegni o cose come, e invece siamo sono più di 30 le opere, perché poi un ragazzo di Brescia, di Caos, gruppo culturale, politico Caos di Brescia, lui fa quello, allora hanno fatto, loro come gruppo ne hanno fatto una, però ne conoscevano perché avevano fatto qualcosa del genere, hanno fatto un incontro per tutta Italia, infatti ci sono due siciliani, cioè Prenci, che è pure famoso. Poi ultimamente si è aggiunto la Lauro, che è stata una sorpresa, che è stata contattata perché era stata entusiasta, anche la scrittrice, quella che ha, diciamo, che ha aiutato Emilia a scrivere il libro, sì. E poi sembra anche Maddox, che è quello che stava con Zero Calcare lì alla trasmissione televisiva. Sì, sì, sì. Vabbè, quindi è diventata una bella... È diventata una cosa bella, grande, e sono entusiasta, sono contento. Stasera al presidio si è presentato uno con un... Dice, ho saputo, io c'ho questo, ho fatto una serigrafia, io ho fatto... ancora... Oggi mi ha chiamato uno da Empoli, cioè, cosa, guarda, poi io vi mando la foto, poi io ci penso io a spedirla a chi è che la prende. Voglio sostenere il movimento, lo non sapevo prima, quindi per dire, sta venendo una cosa bella, e allo stesso tempo noi con la cultura ci facciamo la difesa. No, quando dicono sempre bisogna scoprire chi sta dietro a sostenerla, noi abbiamo sempre detto, noi ci sostengono chi crede in qualcosa, chi crede che un altro sistema ci può, un altro sistema di vita, di futuro ci può essere, e non è certo quello che loro hanno attuato fino adesso, che ci sono tanti giovani che si privano da bottiglia di birra per sostenerci, e poi ci sono modi come un libro o un disegno che fa parte di cultura alternativa a questo sistema inquadrato e ottuso che ci vuole reprimere, non solo noi, vuole reprimere qualunque lotta in Italia, qualunque difesa del territorio, qualunque occupazione per diventare un nemico, quando invece noi diciamo no, sono presidi di lotta, sì, ma anche di cultura e di benessere per la popolazione che c'è attorno. Certo. Questo allora, è il messaggio che vogliamo dare. Allora Mimmo, colgo l'occasione per ricordare che il libro è qui a Roma, e chi lo vuole acquistare, il libro di Emilio A Testa Alta, è scritto con Chiara Sasso, e è qui a Roma. Chi vuole si può mettere in contatto con Radio Godzilla, e ne abbiamo qui un po' di copie, questo lo diciamo per tutti quanti. Niente, sì. Mimmo, allora facciamo il una libro, cosa. Aggiungo il libro, guarda, vale la pena, 10 euro sono spese bene. Sappiate, sono spese bene per due motivi: uno, perché è un bel libro ed è carino da leggere, tutto. E secondo, perché sai che stai aiutando il movimento, la cassa di esistenza di tutti coloro che purtroppo andranno nelle maglie dell'ingiustizia, e che non dobbiamo lasciarlo da solo. Quindi vi invito a comprarlo, ad recare a Radio Godzilla, che ci sta aiutando anche così, facendo propaganda in questa maniera, e ci è vicino, come conosciamo. A voglia, tanto seguiremo perché quello che succede questi giorni. E ti saluto, Mimmo, ti ringrazio della corrispondenza e ci sentiamo molto presto sicuramente. Okay. Ringrazio voi per darci voce a noi e farci sentire, poter dire qualcosa di quello che avviene, perché tutto il resto è dato in modo molto molto ambiguo e molto diverso da quella che è la realtà. Noi ci siamo e vi ringraziamo, con le poche che ci danno ascolto, e quindi noi dobbiamo appigliarci, aggrapparci a voi. Grazie a voi per tutto quello che fate. Grazie per mille. La lotta e per la lotta in Italia. A sarà dura e ci sentiamo. Ciao Mimmo, grazie mille. Ciao. Turn the beat up a lot. Like a shit ton. Like a little more. Some liquor, she say I'm being a dick. Like my name was Richard, I can't be cold, I'm no blizzard. Don't do dress codes, I'm that nigga. I wear a poncho, sombrero, la cucaracha came with us with every fish and he fishing. I drop his name to these bitches. I see if she wanna dance. She sent my shot in the distance, but then she paused. Stop, are you Michael Christmas? I told her, yeah. She said my boyfriend is a fan and she dipped in her hand. Grab a hand, then you gon' have some fun and dance, and do some shit you never did before, and do some shit you never did before. I told that nigga, grab a hand, then you gon' have some fun and dance, and do some shit you never did before, and do some shit you never did before. Knocking on my door, breaking mirrors and I'm stomping on the floor. Rolling chronic towel underneath the door. This life is nothing like before. I must have did something right. Bitch so bad I'm coming twice. Leaving after, fuck your life. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Psych, I've been wrong way, lesson I've been right. I've been through a lot, but I wanna keep it light right now. I probably could stun if I want to. Put a sub in the trunk if I want to. Bring a fire that'll make a bitch jump through. Ooh, eat the booty like junk food. Oh shit, my fault. I told that nigga, grab a hand, then you gon' have some fun and dance, and do some shit you never did before, and do some shit you never did before. I told that nigga, grab a hand, then you gon' have some fun and dance, and do some shit you never did before. Usually I'm nervous, and this ain't no exception. I'm hiding this erection. I'm searching for affection. I seen you past the window looking back at your reflection. But if you see me looking, I bet you would be offended. I'm just looking, I ain't touching. Way too shook, I should say fuck it. Peel off skirt in this bucket. But where that go, get this money. You could judge like your honor. You can get up and dance. Get off your phone and let an awkward nigga reach for your hand. Grab a hand, then you gon' have some fun and dance, and do some shit you never did before, and do some shit you never did before. I told that nigga, grab a hand, then you gon' have some fun and dance. Ricordiamo questa corrispondenza con Mimmo e seguiremo le cose su internet e speriamo mercoledì prossimo di avere una nuova corrispondenza per aggiornamenti. Vi ricordiamo le cose che ci ha detto prima Mimmo, e tutto ai fini di far confluire un po' di soldi nella cassa di resistenza Notav. E vi ricordo quindi il libro A testa alta, Emilio Scalzo di Chiara Sasso, con una prefazione di Livio Pepino e una postfazione di Nicoletta Dosio. Anche lei è stata ospite da questi microfoni. E il libro costa 10 euro, e se vi interessa mettetevi in contatto con Radio Godzilla. Invece domenica alle 10 del mattino su un account Instagram Dana Libera Tutti ci sarà un'asta in cui verranno messi all'asta appunto dei disegni originali di vari disegnatori, fumettisti complici col movimento Notav. E niente, quindi vi salutiamo e a mercoledì prossimo. No, I'm no VIP. No, I'm no VIP. The boss is singing about my ID. Don't have a hit record of a DVD. But my rhymes fit on my bar so nasty. So, no, I'm no VIP. I'm not Beyonce, Christian, and Britney. Unlike them, you can't trick me. Cause I don't move slowly, I move nowadays. Rappers with gold, act like kings. The port and pedestals, they give us sparkling wings. It's about time we cut those strings. Cause when it's all gone, that's when it really stings. They flash their diamonds, they flash their rings. I don't give a shit about the shiny things. Cause real happiness is what money never brings. In the long run, it's me who wins. I've got the same damn shoes, same damn laces. But they can still take me to new places. I don't need Gucci encrusted bracelets. 5 to my cars over 100 suitcases. I might not be recognized by a thousand faces, but karma's a bitch if you're the one who never ever embraces. Your gems are worthless if your actions don't leave traces, and not all sparkling doors lead to crystal staircases. So follow the white rabbit down the rabbit hole, where the constant search for stardust makes your heart turn cold. Your dreams will disappear and then never unfold. You'll be forgotten by tomorrow, cause not all that glitters is gold. Gold, gold, gold. No, I'm no VIP. The bastards sing about fake ID. Don't have a hit record of a DVD. But my rhymes fit on my bar so nasty. So, no, I'm no VIP. I'm not Beyonce, Christian, and Britney. Unlike them, you can't trick me. Cause I don't move slowly, I move quickly. Nowadays, it's not about the filling, but by the icing. One extra sprinkles, no, that's a surprise thing. Magazines keep writing, saying it's the bling bling that's enticing. Now I'm the editor and I'm retyping, cause penniless pockets won't stop me from climbing. Who needs rocks? My words are blinding when the power of speech is forever shining. No, I might not have a mansion in the hills. I train like Eminem or Blazing Grills. Stuff when it never fulfills, but celebrities swallow it like placebo pills. All it does is leave them with empty tills. So stay true and protect your skills. You might have problems, yeah, you might have bills, but remember one thing: too much stardom only ever kills. No, I know VIP. The bastards bosses sing about fake ID. Don't have a hit record of a DVD. Papa Ryan's been on my bar so nasty. So no, I'm no VIP. Not Beyonce, Christina, Britney. Unlike them, you can't trick me, cause I don't move slowly, I move quickly. No, I'm no VIP. The bosses sing about fake ID. Don't have a hit record of a DVD. Papa Ryan's been on my bar so nasty. So no, I'm no VIP. Not Beyonce, Christina, Britney. Unlike them, you can't trick me, cause I don't move.